fuori scende pioggia nucleare. Caste parti ci si copre, sì, con quel poco che rimane, giusto per pensare altrove. Senza prove, senza scuole, con la spinta nelle suole. Questa merda si propone nella meglio soluzione. Sono morti alla stazione con la faccia di cartone, mentre prendono il vagone che li porta a una prigione, che li chiude in un ufficio sotto questo cielo grigio. La moglie in paranoia per la banca di sorriso. Signora, questo conto con la piccola, hanno detto, ne conta molto poco ed è in affitto questo tetto. Un figlio, due figli, adesso è l'altro sul girello, e la vita ti deride nel suo sporco ritornello. Per questo cresci solo finto uomo in mezzo a loro, si sangue con la lingua e con i denti morti loro. Questo setaccio filtra solo le parole che ritengo le migliori per svegliarti fino al giorno in cui mi spengo. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti difetti ma quelli ce li hai, pure tu che li cambi come il vento e te ne vai. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti concetti da darvi, lo sai, pure tu puoi sentirli girare dentro l'hi-fi. Vivo la dimensione il 2000, 10 anni dopo, sì, dopo che le vostre torri merde prendevano fuoco, dopo che quell'uomo ignoto in molto poco vide il vuoto, e adesso vive in un ricordo sulla bara con la foto. E sono loro che vogliono cambiarti a tutti i costi. Nel mondo dei più loschi vedo cieli a bassi costi, nel mondo dei più giusti vedo busti per più gusti, e nel mio rimango solo a fare fuori dell'industria. Scusarmi resta logico per la mia incorrettezza, ho imparato a dialogare dando spazio a gente grezza. Resta così la linea che scemo non si interrompe, tocca che fotti il grasso col cazzo che passi oltre. Inoltre io lascio le mie impronte ma si sa che scompariranno qua con tutta la mia civiltà. Ma qua tra chi ride e chi si ammazza cosa fai? Se consiglio da seguire resta non cambiare mai. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti difetti ma quelli ce li hai, pure tu che li cambi come il vento e te ne vai. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti concetti da darvi, lo sai, pure tu puoi sentirli girare dentro l'hi-fi. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti difetti ma quelli ce li hai, pure tu che li cambi come il vento e te ne vai. Fino al giorno in cui mi spengo io non cambio mai. Ho sogni diversi da quelli che hai, ho tanti concetti da darvi, lo sai, pure tu puoi sentirli girare dentro l'hi-fi. Fat MC 89 BPM prod, gli aria alla porta, il grasso alla voce, Mel alla tastiera, le macchine, peace. Batman and Robin had me thrown in jail, and the nitwitted judge said, for the penguin no bail. They can shackle and chain me, but still I'll escape with the help of the tricks that I've got up my cape.